9:15 in sala da pranzo. Buonasera, signori. Hanno la prenotazione? No, ma la signorina è cliente dell'albergo. Bene. Il numero della camera, prego. I'm sorry? He wants your room number. Oh, right. Numero 47. 47, grazie. Questo tavolo va bene? Non c'è un tavolo all'aperto? Sulla terrazza? Un attimo, controllo. Don't you like this table? Sì, ma sulla terrazza c'è il panorama. Firenze di notte è bellissima. Sì, signori, c'è un tavolo libero sulla terrazza. Prego.